colora la pietà del giorno, al pallido imbrunire che il sudore ne sgocciola, e l'acre odore, il sapore di messo, di sadorno, mentre attorno ogni cosa demorde. Sfiora questo declino e si attarda a uno spento languore, sciogliersi l'ultima luce a sciacquare colore già mesto, vuole l'ora la vittoria che presto occorre si compia. Chino il capo all'usato gesto che atteso inatteso si fa, rabbuia a misura che stempera e svanisce ciò che è stato, sparisce, sfuma, sospesa resta una bruma scura, qui avvolto ogni apparire si abbandona, innalzata a sui fragili destini la notte, le sue mura.